facevo sempre troppo caos. Io mi trasferirò lontano, ma non l'ho fatto mai, ma non lo farò mai. Sarà che non sorridi quasi mai, ma quando poi lo fai vale un'estate intera, vale una luna piena accesa sui gradini di Trinità dei Monti. E sarà, sarà, ma che importa se questa sera non può uscire. Guarda la luna fuori e pensa che anch'io con te la sto guardando. La stessa luna, io e te. Come si fa a non credere che siamo nati io per te, che siamo nati te per me, din te, din te. Sara, sei bella come Roma. Sara, dicevo, noi non ci capiamo mai. Ti lascerò per sempre, ma non l'ho fatto mai, ma non lo farò mai. Roma, che non sorridi quasi mai, ma quando poi lo fai vali un'estate intera, vali gli occhi di Sara quando si volta appena e poi sorride piano. Roma, Roma, ma che importa se Sara oggi non può uscire. Roma, stasera esco con te, sento il tuo cuore dentro il mio, lo stesso cuore io e te. Come si fa a non credere che siamo fatti io per te, che siamo fatti te per me, d'intere, d'intere. Roma, sei bella come Sara.